Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Parole, parole di che, cazzo? Ma fatemi un piacere, dai, su! Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. Che cosa ho immaginato? Ho immaginato che naturalmente il vecchietto debba ritornare in campo. C'è la possibilità di ripetere il miracolo del febbraio 2013 con 10 punti in più in 23 giorni. As tears subside, I find it all so amusing. I politici sono dei campioni delle parole, dei campioni del bla bla bla. Tu hai l'acqua che ti invade la casa, cosa chiami? Un politico o chiami un idraulico? Ecco, Bertolaso è l'idraulico, l'elettricista che ci vuole per far rivivere Roma. Passo sempre delle giornate con protagonisti di Forza Italia insieme a Dudu, che è un recepzionista eccezionale, ma Dudu è il papà con Dudina di tre cuccioli che sono qui in casa, che sono di un divertimento unico, che vengono sul letto, che fanno divertire. Io lavoro con, avendo loro intorno, e devo dire che è una gioia vera. Ma ragazzi, ma è uno spettacolo, ma dai, è uno spettacolo queste amministrative, non solo per Roma. Dai, ma Berlusconi con Dudu, Dudina, Dudina, Dudetta che saltano qua e là, ma dai, è uno spettacolo. Yes, it was my way. Ci vuole l'idraulico, l'elettricista. Io prometto anche oggi, la mia promessa è, se mi candido per Roma, devo ancora decidere qui adesso se mi candido per Roma, mezzi pubblici gratis per tutti. L'ho già promesso? No. Questo, mezzi gratis pubblici per tutti. Tutti. E anche l'assessorato all'idraulica e all'energia elettrica. Oh, questa è la mia promessa oggi, anche se la migliore che ho fatto è, ragazzi, Olimpiadi, ma ogni due anni a Roma. Beh, questa, ragazzi, i circenses sono garantiti per tutti, per tutti. Antonio Razzi si candida? Aspettiamo ancora l'ufficializzazione e lì, vabbè, con questa chiudiamo il cerchio e alle. Sono le 6:32 minuti, questo è 24 mattino, siamo qui pronti, siamo qui prontissimi. Abbiamo intanto un imbavagliatissimo, anche lui imbavagliato per protestare contro questa vergogna degli arbitri italiani. Questa vergogna, imbavagliato, Marione Adinolfi. Mario dà un colpo di straccio al banco del bar. Eccolo qua. Stai ancora parlando di un 4-1. Come fai a parlare imbavagliato? Di un 4-1. Come fai a parlare imbavagliato? Come fai a parlare che sei imbavagliato? Ieri Mario Giordano, grandissimo direttore del TG4 insieme a Liguori, si è presentato imbavagliato per protestare per protestare contro gli arbitri italiani. Marotta ha detto qualcosa, Marotta, sugli arbitri non europei. 4-1 si parla dell'altro. Prova a calciare, deviato, Maxi Lopez in fuori gioco. Come in fuori gioco? Non c'è. Questo non è fuori gioco. Non c'è. Ma dai, su, ma come si fa a discutere? Abbiamo avuto rigore contro, espulso, ma che cosa volete di più? No, come espulso? Bonucci espulso, chi era? No, sì, ho capito, ma lì nel rigore appunto non c'è stata. Adesso ti sei inventato che l'ha espulso quando non deve, quando non doveva essere espulso. Un rigore contro e un espulso. È mancata espulsione nel rigore, è mancata, dillo, rigore è mancata espulsione. 4-1. Ho capito, quindi sono due categorie differenze fra Juve e Torino. Niente, che vogliamo dire? Niente, è inutile, è inutile. Diversi, è inutile. Vabbè, caro Marione, qui oggi torna alla grandissima, un graditissimo ritorno. Ha scritto un libro nel frattempo, si intitola Di rabbia e di vento, Sellerio editore. Io l'ho ricevuto, ti ringrazio, non l'ho ancora letto, quindi non posso esprimere giudizi. Ma è Alessandro Robecchi, interista. Ciao a tutti, buongiorno. Come stai? Sei molto imbavagliato? Bene, molto bene, un po' steccato di iniziare con il chiagni e fossi degli juventini, ma insomma, la solita storia, come gli Stati Uniti che parlano male della bomba atomica. Grande questa, gli juventini come gli Stati Uniti che parlano male della bomba atomica. Non è male. Allora, qui apriamo subito il Parlamento, che dobbiamo fare innervosire subito Mario Adinolfi. Ricordiamo, candidato a Roma con il popolo della famiglia. Ragazzi, hai messo per noi il, come si chiama, non il logo, il simbolo. Esatto. Ti hanno subissato di... Cose, un par di mila insulti al giorno. Un par di mila insulti. Noi li gestiamo tranquilli. Ieri Marione ha fatto un'intervista a Libero, ha dichiarato, possiamo dirlo. Sono molto offeso che non me l'abbia proposta tu l'intervista a Libero, e comunque vabbè. Vabbè, ma dai, non... ma chissà che non ci sia dietro io comunque in quello zampino di intervista, ecco, vabbè, dai, te la butto lì. 170 chili, è vero? Cioè, ma adesso fammi capire, ho fatto 400 righe di intervista, poi devo fare i 170 chili. No, vabbè, mi ha colpito. 400 righe di intervista sono quelle, cioè, ma è la cosa più sensata di tutta l'intervista. No, questo non volevo dirlo, ma non volevo dirlo. Però lo dico io, è quello che colpisce, dai, 170 chili. Ma è vero? Ma è vero che ti mangi 7 cornetti? No, dai, non è vero. Può capitare. No, vabbè, in questa intervista, caro Robecchi, di tu, dai, tu hai capito cosa è successo ad Adinolfi un giorno nella vita? Lui dice nulla, sono sempre stato quello che... Da anni dico sempre queste cose. Io non me lo ricordo tantissimo. Tu... No, nemmeno io, però, se mi consenti, caro, sì, Milan... Sì. Non... Cioè, non è una delle priorità dei miei pensieri, quello che ha pensato, pensa e penserà di noi. Vabbè, diciamo. Ho capito, però... No, non ho capito cosa gli è successo. Se ha detto per tutta la vita quelle cose, è un aggravante, non è un attenuante. E vabbè, questo... Cioè, non è che è stato fulminato sulla via di Damasco, come capita, era così anche prima dell'incidente. No, dai, che incidente. No, vabbè, ma Robecchi è così, si sa, dai, Marione. Però tu, insomma, in questa intervista racconti tutto quello che pensi, le cose che spesso ci dici anche qui. Però dici, sei sempre stato così, sei coerente con tutto quello che hai fatto. Sempre pensato e sempre detto, se qualcuno trova cose diverse dette, me lo dico. Ma non so, nel 2007 stavo 10 anni fa a manifestare a un Family Day, spero sia legittimo, spero che Robecchi ce lo consenta di poter andare ai Family Day se ci va nel 2007, nel 2016, nel 2015, stavo con Matteo Renzi a dire le stesse cose, poi Matteo Renzi ha cambiato idea, per esempio. Avete contestato a Matteo Renzi il fatto che abbia cambiato idea, non ho cambiato idea io, Nel 2007 manifestavo io, non, insieme a lui, insomma, su queste cose ha cambiato idea, magari si può anche cambiare idea. Quando avevo 16 anni ero il capo delle liste di Presenza Cristiana, che mi sembra una definizione persino un pochino più radicale di popolo della famiglia. Cos'è Presenza Cristiana? Ma chi è? Erano le liste di studenti cattolici che facevano il mazzo ai comunisti e ai fascisti, tutte le elezioni. Per cui a Roma le guidavo io, contro Miguel Gotor, oggi senatore dei... Sì, Bersaniano. E contro la Meloni e Mollicone, che erano invece gli stronzi. E quindi puoi dire... Le storie si possono... ti posso giudicare negativamente, cioè, una storia, hai detto per sempre cavolate, però non è che non le ho dette a 16 anni, l'ho detto a 16 anni nel 2007. Cioè dici sei stato 2016. Coerente, sei stato coerente, vabbè. Non è che difendo la coerenza, difendo le cose che ho detto, non ho capito, cioè questa è una tremenda, e quelle cose non si possono dire, perché se no Robecchi non gli piacciono. Si possono dire, a Robecchi non piacciono, certo che si possono dire. Non so, si possono dire, mi sembra che a Gnocchi le dice 24 ore su 24 su tutti i media, quindi si possono dire. Si possono dire, quindi sei legittimato. Si possono dire, sì, dai, Marione, Marione, certo che si possono dire. Si possono dire, questa è una cosa già... Si possono dire. Finché non venite a dirmi come devo usare il mio uccello, con chi devo stare, con chi devo fare l'amore, con chi devo fare i figli, potete dire quello che volete. Quello non ci interessa, basta che non lo dite a me, fatelo voi, bravi, le leggi, complimenti. Così che no, tra l'altro, ma a proposito di leggi, oggi su tutti i giornali, tutte le prime pagine dei giornali, c'è anche questa vicenda nuova di una sentenza del Tribunale dei Minori di Roma, così Marione, ti facciamo passare una bella giornata. Tribunale dei Minori di Roma che dice sì all'adozione di un bimbo per due papà. Ecco, poi so già che tu dirai i papà non sono due, però insomma per sentenza del Tribunale dei Minori è così. Cioè hanno fatto la maternità surrogata in Canada, poi questo uomo che ha il figlio biologico sta con un compagno da credo 10 anni, e il Tribunale dei Minori, applicando una legge, la legge 184 dell'89-88, non lo so, ha detto sì all'adozione al compagno. Quindi questo bambino, questo ragazzino, ha due papà adesso. Robecchi è così, no? Sì, da quanto ho letto stamattina, sì, è così. Sì. Ha due papà. Questa cosa a Marione non piace, Non piace. Cioè, spero che non dobbiamo fare le leggi e le sentenze perché piacciono a Marione. Però è così. Mario, che c'è che non va di questa... Cioè, che non va che il Parlamento ha discusso per un anno di questa questione. La questione era la stepchild adoption e la legittimazione della pratica dell'utero in affitto. Il Parlamento ha deciso che quella pratica non la vuole e dunque ha stralciato l'articolo sulla stepchild adoption. Ma qui è un'altra legge. La democrazia prevede che le leggi le fa il Parlamento e non le fanno i giudici. Ma anche questa legge l'ha fatta al Parlamento nell'88, nell'83. Se fino ad oggi sia mai stata emessa una sentenza del genere con due papà, no, con due mamme, sì, non è mai stata emessa una sentenza sui due papà. Improvvisamente sono state emessa dalla stessa giudice, cioè Melita Cavallo, sì, che il 31 dicembre andava in pensione, sì, improvvisamente a dicembre emette questa sentenza perché non più sanzionabile, evidentemente, perché andava in pensione. Cioè l'ha fatta apposta, l'ha fatto strumentalmente. È ovvio, è una sentenza ideologica. La legge è stata discussa in Parlamento, è un organismo. Vabbè, ma guarda che non è la prima sentenza, di questa prima applicazione di questa 184. È la prima con due papà. C'è stata con due mamme, ne hanno fatte altre con due donne. Infatti con le donne. Anche quella con due mamme, ma quella con due papà è ulteriormente grave perché le la pratica dell'utero in affitto. La pratica dell'utero in affitto è illegale e prevede 2 anni di reclusione e 1.000.000 euro di multa. Questa è la norma di questo paese. Poi, se decide un giudice monocratico contro il volere del Parlamento, attenzione, stavolta vi va bene perché va nella direzione dei vostri orientamenti radical chic. No, ma poi un giudice monocratico. Radical chic lo dirai a Robecchi. Gli puoi dire interista e radical chic. È un cliché fondamentale. Che poi però questo meccanismo qui dovrà andare bene sempre, che un giudice possa decidere al posto del Parlamento. Questo a me non piace in generale, o non piace o piace. Robecchi, dici qualcosa. Dico questo: se gente che fa il diavolo a 4 per bloccare una legge del Parlamento e poi salta su come un pinocchietto a dire ecco non c'è la legge. Se non c'è la legge, la magistratura, siccome in natura esistono dei casi, agisce e decide in tutta libertà. D'altronde, chi ha bloccato la legge non si può lamentare del fatto che non c'è una legge. Quindi, primo. Punto secondo. Il concetto è: avete bloccato la legge, ma un giudice applica un'altra legge, che cioè, non è che si inventa. Esatto, comunque se posso interrompere il fluviale a molti, mi permetto. La cosa che a me interessa è due punti. Il bambino sta bene? È contento? Gli vogliono bene? Sarà trattato bene? Lo fanno studiare o lo mandano in miniera? Basta, questo mi interessa. Che ci abbia due padri, due madri, due zii, sette fratelli, a me non me ne frega un cazzo. Il bambino è felice? Punto e basta. Ad Inolfi e la sua cricca e la sua setta che speculano sull'infelicità della gente, e davanti a questa cosa deve solo star zitto e farsi la domanda: il bambino sarà contento? Punto, basta. Per me non esiste altro argomento. Amate e fate quello che volete. Io non ho capito però tutto questo con la candidatura a Roma, che cosa c'entra? Questo Marione, tu continui a insistere che la candidatura, cioè a sindaco... Ma io non sono candidato a Roma, il popolo della famiglia è candidato in 380 certo, di questo paese. Tu a Roma è allora, il popolo della famiglia. Allora noi esprimiamo, come dice... Sì, ma le amministrative, cioè io posso capire alle elezioni politiche, dice voglio andare in Parlamento per fare o non fare delle leggi. Ma noi non possiamo decidere di governare le città, non possiamo decidere ma non con questi programmi. Le risorse pubbliche invece per il prossimo concerto di Elton John, per costruire il bonus bebè per la natalità comune, c'è una cosa che non si può fare. Ecco. Non siamo legittimati a farlo. Ma non prenderla di punta che non potete farlo. Certo che potete. Certo che potete. Mi chiedevo che cosa. Grazie ancora per il permesso. No, detto questo, non mi sembra incomprensibile che un'opzione politica uguale alle opzioni politiche che ritenete rilevanti, come quelle diciamo proposte da magari dall'onorevole Razzi, siano un'opzione politica che si propone ovviamente con una visione del mondo molto precisa di chiedere. Vabbè, ma facciamo così allora. Io devo andare al traffico, poi voglio chiedere anche appunto su queste amministrative ad ampio sguardo, Robecchi che ne pensa per esempio di Berlusconi, questa cosa del centrodestra secondo me ti fa gongolare tanto da interista, tu gongoli più per le sfighe di Berlusconi e del suo Milan o delle sfighe del centrodestra? Ecco, per esempio questa domanda bregnante, tra poco. Amore, ma che fai? Sai benissimo che a quest'ora io voglio solo il traffico. Uè, Salvini, lei dice troppe parolacce, il presidente del Consiglio non lo farai mai. Decidere di fare patti prematrimoniali prima del matrimonio è un'antitesi assurda, assurda. A Roma ci dobbiamo candidare ancora io, Giulio Cesare, io gladiatore, o stiamo a posto, ma niente di meno che fa più rumore delle presidenziali americane. Ma allora, questo parlare sempre male dell'Italicum, ma guardate qualche volta la Spagna come sta messa da una quantità di mesi. No, l'Italicum fa schifo, allora stiamo così, non abbiamo mai un governo, ma io invece sono per l'Italicum e basta. Oi Milan, ascolta me, tu il traffico ce l'hai nel cervello quando parli di Milan. Robecchi, è così. Allora vi faccio sentire la Meloni che sono nata nel 77, quindi senti qui. Lei non si definisce una fascista, si vergogna di definirsi fascista. No, non ho bisogno di definirmi con niente che sia del millennio scorso. Sono nata nel 1977. È come se mi definissi guelfa o ghibellina. Guelfa non è male, come se mi definissi guelfa o ghibellina, Romecchi? Ti pare? Sì, quindi io che sono nato dopo il 17, giuro. Sì. Non posso essere comunista, no? Certo, anche tu infatti non sei comunista. Ma tu fa hai, molto ridere. Tu fa l'hai, molto vista, ridere. L'hai vista la rivoluzione bolscevica, certo. Di la verità. Sì, no, fa molto ridere questo nascondere il proprio passato, mascherarlo, camuffarlo, no? Ma d'altronde l'abbiamo già visto, perché quando abbiamo visto i leader del, come si chiamava ai tempi, DS, PDS, non mi ricordo, sì, dire sì, non mai stato comunista, era un po' quelle cose lì, insomma, no? Mm-hmm. Per cui adesso serve una nuova virginità, siccome Silvio gli ha detto che sono fascisti, quella deve dire non sono fascisti, è una pièce, è una commedia di Feijó. Lo sai, magari poi Berlusconi appoggerà la Meloni, cioè guarda che sicuro non si sa, però chi vince, appoggerà chi ha più possibilità di vincere. Insomma, quindi cioè, potrebbe far fuori Bertolaso nel giro di 2 giorni, 3 giorni e dire no, ci siamo sbagliati, la Meloni. Vabbè, Bertolaso devo dire che in un quarto d'ora ha fatto più autogol da metà campo che sì, ma il problema lì è molto semplice, che finita la leadership di uno che pagava da bere a tutti, sai che al bar quello più popolare è quello che a un certo punto dice pago io, ecco. Finito quel periodo lì in cui Silvio pagava per tutti, adesso come dire, liberi tutti. Quindi... Ma Adinolfi è una fascistona la Meloni, la Giorgia Meloni? Ma io veramente trovo sensato che una nata nel 77 possa dire io non ho niente a che fare col fascismo, non è una fascistona, questo è... No, Giorgia può avere altri difetti, ma non può essere definita una fascista perché non lo è, cioè... Chiarezza, io me la ricordo a certe manifestazioni, non era da una ragazza che possa essere considerata inneggiante al fascismo. Poi ci sono altre cose che non mi piacciono della sua candidatura, la vicinanza alle posizioni per esempio della Lega sulla prostituzione, che trovo scene violente nei confronti delle donne. Posso contestarla su quello che propone, contestarle un DNA a una ragazza del 77 effettivamente. Ecco, per esempio, sindaco di Roma, Adinolfi, cari amici di Roma, scordatevi un bel quartierone a luci rosse. Quello scordatevelo davvero. Quello proprio. Come ho detto nel libro, andrò all'attacco delle colonie del male. Cioè, ma chi sono le colonie del male? Beh, quei posti dove a Roma, sapete, ci sono le dark room, dove si droga a profusione, si cerca di perdere ogni di natura sessuale, mannaggia Robecchi, con tutti i locali che Robecchi conosce alla perfezione. Ce ne sono molte, sono state anche denunciate recentemente da un giornalista, peraltro omosessuale, attivista LGBT, che per aver denunciato queste cose è stato minacciato di morte, ma ovviamente di questo non si parla mai. L'importante quotidiano perché ci sarà un complotto di no, Robecchi, tutti i locali che tu li conosci, c'è un complotto per non parlare delle colonie del male. Ogni volta che dico quello è fallito. Ma no, ma dai, ma non mica è colpa mia se fai ride. La Meloni è facile. E tu pensi che così risolvi, e tu pensi sembra intelligente, un acuto critico della società contemporanea. Allora, a campo. Posso dire? Aspetta, posso parlare? Sì, sì, che dici. Se uno argomenta sul fatto che ci sono le colonie del male, sì, esatto, le colonie del male, esatto, l'unico commento male possibile sono è ridere le colonie in faccia. Caro Adinolfi. Vabbè. Aspetta, dai, vi faccio sentire Salvini, che vi metterà certamente d'accordo. Tutti quanti. Salvini, notizia. Mastella dice... Ma non ho tempo da perdere con Mastella, dai. Io mi metto nei panni di chi è davanti alla televisione e dice: cazzo, ma c'è ancora Mastella? Io pensavo che non ci fosse sparito. Io Mastella non lo voto neanche se viene giù Padre Pio a chiedermi di votare Mastella. Vabbè, cazzo, c'è ancora Mastella. A questa almeno l'ha azzeccata. Ridi, me lo becchi. Dai, vabbè, Mario, vai, però. Vai. Posso parlare? Sì, vai. Ecco, a proposito dell'acuto osservatore della società, posso parlare di tutto. Sì. Se uno tira fuori le colonie del male, l'unico commento possibile è ridergli in faccia. Ecco, Adinolfi, tu argomenta un po' meglio oppure e nessuno ti riderà in faccia. Ecco. Oppure ascoltare quello che uno dice. Sì, ma se sono puttanate, io ascolto quello che dici, ma siccome dici solo puttanate, non lo ascolterò più, capito? Irridente, perché l'atteggiamento irridente deve essere motivato da qualcosa, da una visione Ma dalle cazzate che dici, Adinolfi. Pensare che tutti dicono cazzate,